Non so più esattamente che ore sono. Sono più o meno le 7 del mattino. Anche un po' prima, secondo me. Vi parlo in diretta dagli studi di Rock FM, che stanno a Milano. A Milano. Via Locatelli 1, 20124. Io sono l'Ariele, ciao. Dall'altra parte del vetro, pessimo come ogni giorno, Spadino, al quale una doccia farebbe bene, così in amicizia, Spadino, ma sei sempre bello come il sole. Essendo qui, com'è come non è, andremo a fare un programma radiofonico, sì, una trasmissione, nulla di che, un divertissement, un enjamblement. Ci togliamo la pruderie di queste... Andavo di francesismi così. Puntata 174, oggi è venerdì 1 febbraio 2008, l'anno della svolta. Questa è la nostra sigla. Sale la tensione a due giorni dal raduno. Ce la faremo oppure no? Pane, burro e rock and roll. La tua colazione rock. L'unica con il casù. Pane, burro e rock and roll. If they were good, se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Sale la tensione, fra un paio di giorni ufficialmente diventeremo il primo programma radiofonico della storia italiana ad aver organizzato un raduno surrealista. E già sale la tensione. Anche perché io, Spadino, vieni anche tu, lo sai. E lo sai che le patenti da vero rocker le diamo solo a chi si presenta vestito da cowboy o da indiani. E lo sai che ci saranno altri che non saranno vestiti da cowboy ed indiani e che lavorranno. E li scatterà la rissa. Sì. E picchi tu però, perché io sono un pacifista, guarda proprio. Aia, SMS inquietante da subito. No, come inquietante? È uscito Lambo della Carla. Il tabaccaio, con un appellativo che non leggo, mi ha sbagliato la giocata. Spero che qualcuno l'abbia preso. Ci vediamo domenica. Se non piove con le mie due sorelle, Tiziano. Porta, mi piace l'idea di portare le sorelle da Livorno. È uscito Lambo di Carla, no, fammela chiamare subito. Oh mamma, che emozione! Have you ever heard of a wish sandwich? A wish sandwich is the kind of a sandwich where you have two slices of bread and you wish you had some meat. Ball, ball, ball. The other day, I had a ricochet biscuit. A ricochet biscuit is the kind of a biscuit that's supposed to bounce back off the wall into your mouth. If it don't bounce back, you go hungry. Bow, bow, bow. The other day, I had a cool water sandwich and a Sunday go to meat and bun. Bow, bow, bow. Mm-hmm. a hum on a shop up. Here on a hob of a chico. I rot a hun on a hit here on a name on a hum on a here on a hill on a hit here on a hum on a hit here on a hob of a shop up. Here on a hill on a here on a hill on a hill. E cried Belushi che fanno gli stupidotti in questa Rubber Biscuits. What do you want for nothing? Rubber Biscuits? Per l'appunto, Rubber Biscuits, o meglio, Rubber Biscuits, The Blues Brothers. Che inizione. C'è tensione anche per dell'altro. La puntata 174, quella che è appena cominciata da pochi minuti, segnerà un altro primato per noi, ovvero la messa in onda della prima radionovela di Pane, Burro e Rock and Roll. Si chiama Zorrock. Ve lo abbiamo presentata con un promo nel corso di questa settimana e quest'oggi verrà programmata, verrà trasmessa. Avviso da subito, non sto a giocare, non gioco con voi radioascoltatori e radioascoltatrici, non mi va di prendervi in giro, la metteremo nell'ultima mezz'ora. Sicuramente poi settimana prossima la riproporremo anche per voi della prima ora di diretta e in ogni caso ricordo sempre che su myspace.com/paneburrofm già da quest'oggi verrà inserita, oppure potete spulciare l'archivio su radiorockfm.com, trovate tutte le puntate per intero di Pane, Burro e Rock and Roll, quindi doveste perdervela, no, perché so che c'è qualcuno che l'aspetta, a molti di voi fa un baffo e va bene, però ad altri c'è attesa, c'è tensione per questa prima puntata di Zorrock. Tra l'altro non posso dire nulla, Zorrock lo fa Caravelli. Io faccio la voce recitante e il servo muto, ma non posso dirvi nient'altro se non invitarvi alle nostre coordinate, numero di SMS 335 100 77 77 e la casella di posta elettronica che è ariel@radiorockfm.com. questo e molto altro è Pane, Burro e Rock and Roll. Maestro Fricantoni, fortuna che è arrivato, perché voglio fare con lei questa cosa, l'aspettavo. La ringrazio. Girare la pagina del calendario 2008, l'anno della svolta di Pane, Burro e Rock and Roll, e passiamo dai Ramones a Abbey Road dei Beatles. Bellissimo. È febbraio! Anche questa è una foto straordinaria, lei mese di febbraio. Bene. Buon primo di febbraio anche a lei, maestro. Grazie, ma ricambio con affetto e l'augurio lo estendo a tutti i radioascoltatori e alle radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Tuffiamoci nella prima rubrica della nostra trasmissione, ovvero l'almanacco del giorno che fu. Cosa successe il primo febbraio, ma, attento bene, la interrogo, del 1788. Lo so, è scritto. Isaac Briggs e William Longstreet brevettano la nave a vapore. Che carini. Oh, finalmente basta con questi remi, con questi schiavi, finalmente fa il vapore. Mentre nel 1919, sempre primo febbraio, il primo di febbraio, la prima Miss America viene incoronata a New York. Ah, ci piacerebbe vedere la foto dell'incoronazione di Miss America. Potrebbe avere i suoi anni, I suoi annetti. Oggi, come oggi, c'è un giro di sguardi in redazione, nel senso che potrebbe anche essere andata o no, chi lo sa. Speriamo di no, speriamo di no. Prendiamola senza sapere queste cose, maestro. Ma prendiamola bene, sì. Sarà ancora viva, vegeta e una splendida nonnina. Proseguiamo con una notizia rock. Primo febbraio del 69, Jim Morrison viene arrestato dopo un concerto per atti osceni in luogo pubblico. Era un po' scappava, da lui, sì, gli scappava spesso. Tirar giù i pantaloni. gli piaceva. Anche lei gira spesso con la patta aperta, ho notato, eh? Ma solo per pura dimenticanza. Ah, non per emulazione. Per via della demenza senile che mi fa dimenticare. Ce la siamo tenuta per ultima, la grande notizia del legata al primo di febbraio, perché era il 1990 quando a Milano nasceva una radio. Quella radio si chiamava Rock FM. Auguri! Yeah, auguri a Rock 18 FM. 18 anni, siamo maggiorenni. E per uno spirito democratico ed equanime, ricordiamo che nacque the same day of DJ. Lei voleva farla rima in inglese. Yeah, per forza. Di tutto per dire the che il primo di febbraio è nata anche Radio DJ. Anche Radio DJ. Ma noi DJ. Siamo Rock FM e facciamo gli auguri a Rock FM. Ma no, ma facciamone anche loro anche per loro. Una questione di un buon vicinato. Vecchio, auguri a tutti, però noi facciamo 18 anni. Noi bello. Siamo maggiorenni. Auguri. Evviva, auguri a noi, ma anche a DJ. Poco meno. Un po' meno, noi. Un po' meno, ma tanti comunque. Va bene. target for your enemy. Belli fricchettoni, così ci piace affrontare la mattina. We can be together, Jefferson Airplane, che non è come disannunciare il Jefferson Starship, ma è quasi, la soddisfazione è quasi uguale. Chiusura dolce, Salutone ad Alessia, un saluto a Cesar da Genova, che è dice purtroppo sono solo un ascoltatore saltuario. Tra l'altro una bella idea per i nostri sondaggi, la tengo per settimana prossima, Cesar, perché tanto oggi, guarda, lo so già come va a finire. Ci vediamo a Celle domenica, penso che sarò uno pseudo cowboy single, quindi felice di incontrare Rocchettare, Squo e Cowgirl. Ciao Cesar, ultimo saluto a Paul, anche lui da Celle Ligure, abbiamo risvegliato l'ascolto di Celle Ligure, ragazzi. Ci fa sapere che ci ascolta mentre ripara gli ascensori. Ho sentito che parlavi di un appuntamento per domenica al carnevale di Celle Ligure, con possibili patenti da vero rocker, ma è tutto vero? Praticamente partite da casa mia. E allora ci vediamo, caro Paul. Vi ricordo che le patenti arrivano solo se siete vestiti o da cowboy o da indiani, perché altrimenti gli altri si arrabbiano. Un saluto anche a Alicia, perché no? Ah, ok, Alicia e Alissa. Insomma, importante che vi ho salutato tutti. Ma ci sono ben altri problemi da affrontare in questo primo di febbraio. Redazione, mettetemi in collegamento con la tabaccheria. Carlo! Ciao, eccomi qua. Ho sentito il tuo messaggio. La Carla ci ha beccato Lambo? Sì, è primo estratto e ultimo grande estratto sulla Carla! Ruota di allora dopo sicuramente l'andiamo a cercare. Ringraziamo Tiziano che ce lo ha segnalato. A questo punto, se qualcuno dei nostri radioascoltatori si è fidato di noi, mi ha beccato Lambo. Quale? Sì, il 4590 sulla ruota di Bari. Ce l'ho segnato anch'io, guarda, eccolo qua. Perché aveva detto tutte, aveva detto Napoli-Palermo tutte. Esatto, è uscito su Bari, infatti ha vinto su tutte, però comunque l'ha preso, insomma. E quindi ha fatto una bella vincita, anche perché, come ti ho detto, poche vincite in ricevitoria quest'oggi, e praticamente il 99% delle vincite le ha beccate tutte lei, con i numeri che anche tra quelli che non vi ha dato, chiaramente. Noi non vogliamo creare grosse aspettative sui numeri di Carla, però vedete voi. Beh, insomma, qua tutte le volte che c'è un'estrazione lei sembra qua incassare. C'è anche da dire che per ora siete pari, perché ricordo che una volta era Carlo a darci i numeri. Sì, è vero. Un paio le avevi beccati anche tu, o uno? Sì, io ne ho beccati, no, diversi, ne ho beccati anch'io un 6 o 7, tra cui c'è stato un terno clamoroso che è stato fatto qui da me di oltre 13.000 euro. Quello no, ho capito, ma non erano numeri che avevi dato a Rock FM, però. Sì, erano i numeri riferiti a quella. Ah, è vero. Sì. Via Beirut. È vero. Che tra l'altro campeggia proprio oggi nel nostro calendario. Perché esatto, se avete girato il mese. Quando ho sentito che festeggiavate il compleanno mi sono subito segnato la data, quindi... Esatto. Così è segnato su internet, quindi noi abbiamo riferito, sembrava fosse vero. Niente, allora ufficiale, speriamo che altri abbiano beccato il Lambo. Se hai lì la Carla, tienimi la buona che l'ascoltiamo, la chiamo più tardi, ok? Va bene. Con te volevo solo certificare che non solo ha azzeccato i nostri numeri, lei ne gioca altri, il 90% delle vincite della tabaccheria di Carlo vanno a lei. Sì, oggi guarda, proprio veramente ho fatto una strage. Grande Carla, il nostro asso. Ciao! Ciao, arrivederci. Ciao. E festeggiamolo allora questo compleanno di Rock FM, 18 anni. E festeggiamo con Lascia che sia, i Beatles, nella versione originale però, Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Shine until tomorrow, let it be. wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be, yeah, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. For there will be an answer. Let it be, let it be, let it be, let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. Proprio ieri ricevevo un sms di un amico che sentiva nostalgia dei Beatles in italiano. Le nostre parodie, roba che si fa così, tanto per. Sappiate che sono reduce da una nottata intensa passata senza sonno a causa casù. Per quello che me lo sono portato dietro oggi. C'era lo scoglio insormontabile, ce l'ho fatta, insormontabile, di Stairway to Heaven dei Led Zeppelin. Potevo fermarmi di fronte a Stairway to Heaven dei Led Zeppelin che non mi veniva col casù? No, e infatti mi è venuta. C'è! Prossimamente su queste frequenze. Ma non gettiamo troppa carne al fuoco, anche perché l'attesa di oggi ormai è dichiarato, è saputa, è certa. È per la prima radionovela di Pane, Burro e Rock and Roll che faremo ascoltare proprio quest'oggi. Prossimamente. Oggi. In esclusiva per Rock FM. Più tardi. Una radionovela che ha appassionato milioni di radioascoltatori. E che è una figata, aggiungo io. La tranquillità di una piccola cittadina, dispersa nelle lande desolate del Messico, viene messa a dura prova dalla tirannia di un cattivissimo dittatore. Smettetela di ascoltare il rock! È musica da ignoranti cappelloni! Tagliatevi i capelli! Un solo uomo è in grado di porre fine a questi soprusi e arriva in sella ad una rombante motocicletta. Zorrock! Io odio Zorro! Lo detesto! Con tutte le mie forze! Non perdetevi le emozionanti avventure di Zorrock! Io odio rock! Quasi quasi preferisco spararmi uno standard jazz! Prossimamente in esclusiva su Rock FM. Oggi, nell'ultima mezz'ora, di Pane, Burro e Rock and Roll. Ciao. Ciao. Che spesa hai fatto? E tu? Sei già qui? Prendo solo una merendina e vado. Questi ragazzi vivrebbero solo di merendine. E che male c'è? Basta scegliere quelle giuste. Come questa. Pane, Burro e Rock and Roll. Ha tutta la semplicità di un pane fatto con grano, cereali e la bontà naturale della marmellata di frutta. E poi è anche conveniente. Pane, Burro e Rock and Roll. Nutre bene con la sua semplicità.